You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, Tilly, che cavolo aspettiamo a mangiare? Buona serata da Valentina Furlanetto, benvenuti a questo appuntamento di Radio 24 che ogni settimana si occupa di identità attraverso la cucina, attraverso il passaggio di nostri ospiti di solito da una terra all'altra. Parliamo di migrazioni ma anche di integrazione fra culture, di identità, e questa sera lo facciamo con una scrittrice che è già stata nostra ospite circa un anno fa e che ha pubblicato un libro. In altre parole, ma prima di presentarvela e di salutarla e di entrare dentro la trasmissione, vi faccio sentire questo assaggio, un antipasto. Voglio attraversare un piccolo lago. È veramente piccolo, eppure l'altra sponda mi sembra troppo distante, oltre le mie capacità. So che il lago è molto profondo nel mezzo. E anche se so nuotare, ho paura di trovarmi nell'acqua da solo, senza nessun sostegno. Si trova, il lago di cui parlo, in un luogo appartato, isolato. Per raggiungerlo si deve camminare un po' attraverso un bosco silenzioso. Dall'altra parte si vede una casetta, l'unica abitazione sulla sponda. Il lago si è formato subito dopo l'ultima glaciazione, millenni fa. L'acqua è pulita ma scura, priva di correnti, più pesante rispetto all'acqua salata. Dopo che ci si entra, ad alcuni metri dalla riva, non si vede più il fondo. Di mattina osservo quelli che vengono al lago come me. Vedo come lo attraversano in maniera disinvolta e rilassata, come si fermano qualche minuto davanti alla casetta, poi tornano indietro, con le loro bracciate. Li invidio. Per un mese nuoto in tondo, senza spingermi al largo. È una distanza molto più significativa, la circonferenza rispetto al diametro. Impiego più di mezz'ora per fare questo giro. Però sono sempre vicino alla riva. Posso fermarmi. Posso stare in piedi se mi stanco. Un buon esercizio, ma non certo emozionante. Poi una mattina, verso la fine dell'estate, mi incontro lì con due amici. Ho deciso di attraversare il lago con loro per raggiungere finalmente la casetta dall'altra parte. Sono stanco di costeggiare solamente. Conto le bracciate. So che i miei compagni sono nell'acqua con me, ma so che siamo soli. Dopo circa 150 bracciate, sono già in mezzo, la parte più profonda. Continuo. Dopo altre 100, rivedo il fondo. Arrivo dall'altra parte. Ce l'ho fatta senza problemi. Vedo la casetta, finora lontana, a due passi da me. Vedo le distanti, piccole sagome dei miei figli. Sembrano irraggiungibili, ma so che non lo sono. Dopo una traversata, la sponda conosciuta diventa la parte opposta. Di qua diventa di là. Carico di energia, riattraverso il lago. Esulto. Per 20 anni ho studiato la lingua italiana come se nuotassi lungo i bordi di quel lago. Sempre accanto alla mia lingua dominante, l'inglese, sempre costeggiandola. È stato un buon esercizio, benefico per i muscoli, per il cervello, ma non certo emozionante. Studiando una lingua straniera in questo modo, non si può affogare. L'altra lingua è sempre lì per sostenerti, per salvarti. Ma basta galleggiare senza la possibilità di annegare, di colare a picco. Per conoscere una nuova lingua, per immergersi, si deve lasciare la sponda, senza salvagente, senza poter contare sulla terraferma. Qualche settimana dopo aver attraversato il piccolo lago nascosto, faccio una seconda traversata, molto più lunga, ma niente di faticoso. Sarà la prima vera partenza della mia vita. Questa volta in nave, attraverso l'Oceano Atlantico, per vivere in Italia. Buona serata, quindi, a Giunpa Lahiri, grazie per essere con noi. Buonasera, grazie. Giunpa Lahiri, per chi non la conoscesse, anche se è molto ormai conosciuta, famosa, è una scrittrice americana che è nata a Londra da genitori bengalesi. Ha ottenuto il premio Pulitzer, prestigiosissimo premio americano per la letteratura, con la sua prima raccolta di racconti, L'interprete dei Malani. Poi ha scritto diversi romanzi e raccolte di racconti e vive in Italia da qualche anno, è così? Sì, da quasi 3 anni. Vive a Roma e attraverso la conoscenza dell'italiano, insomma, ha voluto in qualche maniera omaggiare anche la nostra cultura e la nostra lingua, iniziando a impararla prima negli Stati Uniti, poi in Italia, adesso addirittura quest'ultimo libro, In altre parole, scritto in italiano da lei. Sì, sembra una cosa surreale, sembra, non lo so, temo di aver oltrepassato in qualche modo. È una lettura sorprendente, veramente è una scrittura densa in cui le frasi sono cesellate, la scelta delle parole non è mai casuale. Allora io davvero ero stupefatta quando l'ho letto, perché la sua scrittura in italiano è altrettanto alta, importante che la sua scrittura in inglese, almeno questo è quello che mi appare. Io mentre lo leggevo mi sentivo in imbarazzo in quanto italiana, perché io non sono in grado di maneggiare la lingua con questa perizia. Come le è venuta l'idea di venire in Italia, di imparare l'italiano? Ha capito il motivo che l'ha spinta a farlo, che è l'interrogativo intorno al quale si aggira tutto il libro, no? Sì, il motivo è molto personale, direi, molto profondo. Ora mi rendo conto che nel scrivere, nel concepire questo libro, ho capito chiaramente il mio rovello, cioè della mancanza di una vera lingua madre, una mancanza di cui sono veramente consapevole qui in Italia. È una cosa che mi ha sempre angosciata, soprattutto perché sono una scrittrice. E quindi questo libro è un modo, penso che sia un modo di affrancarmi dalla mia identità conflittuale, no? La parte bengalese, sia la parte bengalese sia la parte americana. Questo libro, in altre parole, è una raccolta di saggi, in realtà molti dei quali già pubblicati, poi ci sono anche un paio di racconti. Saggi appunto in tutti intorno all'urgenza e al desiderio di appropriarsi di questa lingua, che è una lingua terza, come lei diceva, no? Porta avanti delle metafore interessanti. La prima è quella della traversata che abbiamo sentito all'inizio. Sì, inizio con questa metafora della traversata del lago, e resta rilevante perché la mia scrittura in italiano resta uno sforzo, è un percorso sempre pericoloso e non mi sento al sicuro, però il percorso è molto più emozionante. E poi ci sono altre metafore, quella del bosco è molto poetica, molto affascinante, no? Di raccogliere le parole come se fossero dei frutti, e la montagna da scalare ovviamente, l'innamoramento anche, ecco questo lo vedo molto forte, no? Il desiderio, il bisogno, ho sottolineato queste parole da un suo brano, l'infatuazione che diventa un'ossessione, un amore non corrisposto. Perché non corrisposto? Perché resta sempre una distanza incolmabile tra me e la lingua. Non è la lingua della mia formazione, non è una lingua a cui, come dicevo prima, a cui appartengo completamente. Resta sempre... Forse il migliore amore è quello non corrisposto, no? Perché tende sempre a qualcos'altro. Sì, esatto. Ma la metafora del bosco resta anche rilevante, nel senso che mi ha colpito l'altro giorno, no, ormai ne ho, non lo so, 3, 4, 5 taccuini con tutte le parole che elenco, ma è un apprendimento fuggevole, cioè raccolgo le parole, poi spariscono. E devo ritrovarle. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Un'ora sola ti vorrei. Io che non so scordarti mai, per dirti ancora coi baci miei, che cosa sei per me. Quando leggevo e leggevo di questa sua fatica che lei descrive così bene, di questa tensione continua, voglia di appropriarsi, quando lei l'inglese lo domina perfettamente, ecco, mi chiedevo, ma perché si rende la vita così difficile? Ma per un artista è fondamentale, no? Perché questa distanza invalicabile, questo abisso che almeno io percepisco che esiste tra me e l'italiano, onestamente mi dà una condizione di angoscia permanente, ma molto positivo, mi dà una distanza che mi spinge a scrivere in un altro modo e cambiare totalmente il mio percorso artistico. Questo è molto eccitante. Non essere al sicuro è per me molto importante da scrittrice. Alla fine di tutte queste metafore, qual è la più pregnante secondo lei? Onestamente non lo so, tutte mi sembrano rilevanti e veri, perché è un processo talmente complesso che continuo a trovarmi nel bosco, continuo a trovarmi un po' nel mezzo del lago. Poi questa metafora della maternità è forse quella più profonda, essendo madre me stessa. Onestamente c'è un'altra metafora, perché mi viene in mente l'esperienza di essere ad un confine dove c'è lo sportello e tu ti presenti con i documenti, ma io temo che i miei documenti non siano veri, sono contraffatti in qualche modo, perché... È curiosa questa metafora, perché ha a che fare con la migrazione, con tutto il tema della migrazione. Sì, è interessante, è vero, ma mi sento... mi sento un po' invadente, indiscreta, perché c'è sempre questa tensione con l'appartenenza, il fatto che io non appartenga a questa lingua, eppure mi sento così attaccata, affezionata all'italiano allo stesso tempo. sull'eco del concerto che insieme ci trovò, ripeterò ancora la strada che mi porta a te. Ovunque sei, se ascolterai, accanto a te mi troverai. L'Italia che lei guardava da lontano, com'era e come le appare adesso? Insomma, lei vive qui da 3 anni e comunque capisce di più, è più addentro, al di là della lingua, anche alla cultura, al modo di fare, alla mentalità. Ma guardata da lontano, qualsiasi posto resta una fantasia, un po' una proiezione. Pensavo che Roma fosse una capitale molto più imponente, più come Londra, Parigi. In realtà ho scoperto una città abbastanza intima, un po' quasi un paesino, un po' anche un po' provinciale. Però preferisco assolutamente la realtà, perché volevo capire l'Italia in modo profondo, vero, una conoscenza superficiale non mi interessava. Questo venire all'estero, ricreare appunto un nucleo familiare, cioè crearlo e mandarlo avanti in un contesto diverso, sembra un po' ricreare la situazione dei suoi genitori, no? Che sono andati in America, dall'India per trovare un'altra vita, come tanti migranti che ora sono in Italia. Però sembra che lei abbia bisogno di giustificarsi, di aver avuto bisogno di andare in un altro paese, un bisogno interiore in questo caso, no? È una mia impressione. No, è vero, è perché no, io temo che sia uno sbaglio desiderare un'altra, questa terza via, questa terza lingua, perché i miei genitori volevano che, speravano che io accettassi, apprezzassi la mia identità. Invece questo libro è un po' fondato su un rifiuto, cerco altro, ho bisogno di altro in questo libro, proprio di altre parole, non accetto le parole con cui avrei dovuto scrivere. Come ho detto prima, temo ancora oggi di aver oltrepassato, di aver fatto qualcosa di quasi trasgressivo, e per cui mi vergogno un po' e chiedo sempre scusa. Imparare a parlare in una lingua straniera è una cosa ammirevole, una cosa positiva, giusta, importante. Certo. Però scrivere in una lingua straniera, per certi versi, mi sembra un'infrazione. Lei scrive a un certo punto del libro, in altre parole, scrivendo in italiano penso di fuggire sia i miei fallimenti nei confronti dell'inglese sia il mio successo. E è anche questo successo enorme, premio Pulitzer, no? Fa paura, lei l'ha ricevuto molto giovane con L'interprete dei malanni. E poi il successo che è seguito, il romanzo l'omonimo è stato anche trasformato in un film, che insomma è anche concretamente un modo per diventare più popolari. Quindi anche questo successo è stato fonte anche magari di una certa destabilizzazione della ricerca di una terza via, immagino. Sì, direi di sì, perché appesantisce il successo. In italiano, quando scrivo in italiano mi sento molto più leggera, non sono la stessa scrittrice, sono d'accordo, è un modo di di rifiutare anche il mio successo, ma perché non mi serve, non mi serve il successo, no, dal punto di vista artistico, fa male, onestamente, almeno questo è il mio parere. Se stasera sono qui, è perché so perdonare e non voglio gettare via così il mio amore per te. Per me venire qui è stato come scalare la montagna più alta del mondo, e ora che sono qui voglio dimenticare. Ci sono anche all'interno del libro un paio di racconti. Un racconto su uno scambio di un golfino e un altro racconto, Penombra. Quello che io ho notato, però magari è una mia impressione, è che rispetto ai suoi racconti scritti in inglese c'è una vena onirica molto forte. Mi chiedevo, l'uso di una lingua invece che un'altra modifica sostanzialmente anche il contenuto della sua scrittura, secondo lei? Sì, assolutamente, no? E modifica lo stile, modifica l'approccio, tutto. In italiano scrivo diversamente, no? E in modo molto più astratto. In italiano mi muovo verso l'astrazione. E per ora tutti i racconti che ho scritto in italiano sono ambientati in posti, in luoghi imprecisati, i personaggi non hanno nomi, c'è un senso di sì, sono più c'è un approccio più onirico, ma perché scrivere in un'altra lingua è un po' così, un sogno, sembra un sogno, non mi sento completamente sulla terra. E ora che sono qui voglio dimenticare i ricordi più tristi giù in fondo, se stasera sono qui è perché ti voglio bene. È perché tu hai bisogno di me. Resterai in Italia a vivere? Purtroppo no, in questo momento bisogna tornare, ho accettato un lavoro alla Princeton University e spero di portare con me un po' no, l'italiano, questa nuova parte della mia vita, anche della mia vita letteraria, ma sono già cambiata qui in modo profondo, radicale, e la mia scrittura ha preso questa nuova piega sorprendente, e quindi quando torno in America tornerò diversamente, non sono più la stessa persona che ha lasciato gli Stati Uniti 3 anni fa. Io ormai sento molto più a casa qui che in America, quindi non voglio pensarci onestamente perché sento già una grande angoscia. E anche noi la sentiamo, quindi la ringraziamo molto per essere stata con noi questa sera, complimenti, e io consiglio a tutti gli ascoltatori di prendere, di maneggiare, di leggere e rileggere questo In altre parole, che poi questo significato del titolo, non so se l'ha scelto lei il titolo, ma mi ha colpito molto perché In altre parole chiaramente in parole diverse, in parole di un'altra lingua, ma significa anche mi spiego, no? Sì, esatto. Sì, l'ha scelto lei? Sì, Sì, ho scelto io questo titolo che ha un significato sia letterale sia anche figurativo. Simbolico, certo. Giunpa Lahiri, in altre parole, grazie a lei, Guanda Editore, in libreria, un libro che è un romanzo, che è una raccolta di pensieri, che fa riflettere veramente sui propri pensieri intorno all'identità, alla lingua, ed è veramente bellissimo. Grazie, grazie Giunpa Lahiri per essere stata con noi questa sera. Buona serata. Grazie, grazie di cuore. Buona serata. You've got to give a little. That's the glory of.